Luponer Summer Spurgo. Sarebbe stato facile, ma questo agosto è particolarmente fatica, soprattutto dopo un pranzo al mare con un sacco dei fiori, ma noi non ce ne frega perché noi siamo Luponer Summer Spurgo e tiriamo avanti dritti, ma così per tutta la nostra esistenza, perché siamo cronici, almeno io e Frami, io Vanni e Frami, che abbiamo ascoltato in saluto all'inizio, e li ascolteremo presto metà settembre quando riprenderemo la programmazione regolare di Luponer a Radio R. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo degli Everything Gas Goes Cold da San Francisco, California, USA. Sono tra industrial rock, post punk e cold wave d'America. E il brano che abbiamo ascoltato era Nadir. Loro sono tuttora, ancora esistono, gli Everything Goes Cold. E sorprendentemente esistono, nonostante il caldo, anche i Warm Throne, una band black metal dal Portogallo, che ascoltiamo dal loro debutto, Enlightened Through Darkness. Questo è il titolo dell'album. uscito per Larve Records a gennaio di quest'anno. Ascoltiamo la title track, che appunto è Enlightened Through Darkness. Loro sono i Warm Throne. Lupo On Air, Summersburgo. Este es un efluvio del progreso. Colombia, sappiamo bene che vuol dire un sacco di cose, ma da Bogotà, Colombia, arrivano anche altre robette interessanti come i Meridian Brothers, la loro cumbia assassina, decisamente fuori scala, quindi non la cumbia che ci ha rotto il cazzo da queste parti, ma una roba nuova. Dal loro ultimo album, recentissimo, Mi Latino America Sufre, Meridian Brothers, abbiamo ascoltato il brano Se coi e stoi cambiando. Se... che sto cambiando, che vuol dire, non voglio azzardare, vi posso dire che vuol dire Fabio Mazzini, perché Fabio Mazzini è un chitarrista misto compositore di elettronica da Imola, provincia di Bologna. Fabio Mazzini, il suo nome vuol dire esattamente Fabio, il nome, Mazzini, il cognome. È una cosa, un'espressione idiomatica italiana che non so se potete capire. E comunque sia, lui ha pubblicato da non molto un album di musica sperimentale tra chitarra ed elettronica, appunto, intitolato Kai, da cui ascoltiamo la title track, Kai, il suo è Fabio Mazzini. Thank you. Lupo Uner, Summer Spurgo. Ich werde Sie jetzt aufgrund akuter Eigen- und Fremdgefährdung im Rahmen einer psychischen Krise mitnehmen und zur Unterbringung der örtlichen Psychiatrie übergeben. Entscheiden, ob sie in der Klinik bleiben müssen. In Germania d'estate è possibile che faccia una fa de Dio, soprattutto agli eventi in cui mette la musica e o si esibisce live. Xotox, un progetto solista di Andreas Davids, un terrorista power noise da Bielefeld, Germania, se non sbaglio. E ha da poco ripubblicato una nuova versione del suo vecchio singolo intitolato The Dark, e quindi è ora in circolazione la versione ricostruita per il 2024. The Dark, Xotox, e è quella che abbiamo ascoltato adesso. È stato bello? Vi è piaciuto? Bene, ora basta col divertimento, perché c'è un nuovo prodotto di Loris Cericola, un compositore giovane, almeno rispetto a me, compositore delle Marche, proveniente da lontano, lontanissimo, ormai stabilitosi a Montecosaro Alto da parecchio tempo, oltre a una roba di industrial grezzissimo chiamato Placenta, che sta portando avanti divertendosi lui e facendo divertire noi. Ci sono anche le cose per metterci più in difficoltà, come il suo progetto solista a nome e cognome proprio, Loris Cericola. È apparso da pochissimo questo nuovo EP intitolato Metamatica, e da questo EP ascoltiamo il brano che dà il titolo all'EP, Metamatica. Lui è Loris Cericola. Thank you. Lupo Nero, Sommersburgo. Piacevolmente old school, questo questo progetto parallelo dei Rorschach Garden, chiamato Nitless, sempre da Bielefeld, Germania. Philipp Münch si diverte con l'IBM Old School con quest'album intitolato Defeat the Monsters, da cui abbiamo ascoltato questo brano simpaticissimo, raw and punky, grezzo e panchettoso. Invece no, no, altrettanto grezzo e panchettoso è il messicano, però nato a Seul, dice Seul, non so se sempre in una qualche provincia messicana, Octopulp, un pazzoide che fa un sacco di madcore tentacolare, diciamo, una sorta di woman band, la woman band che non ti aspetti. Ha pubblicato il suo ultimo album è Alt 164, che non so facendo coi codici ASCII cosa esce fuori, francamente. Ed è stato ripubblicato di recente dalla marchigiana Wrong Disc Records. Evviva, ascoltiamone un brano. Ascoltiamo il brano Dear President da quest'ultima uscita di Octopulp. ever in the history of the world at the Merchants of Obscenity. Unnatural sex acts, and available to them the modern facilities for disseminating this filth. We know that once a person is perverted, it is practically impossible for that person to adjust to normal attitudes in regard to sex. Piacevolissimi questi Analog 80 da Bruxelles, Belgium, che si rifanno proprio al new beat storico, quindi proprio musica elettronica anni 80 da ballo. Prendono influenza sia da quello che dall'IBM, comunque retro, e da quest'album, che però è uscito adesso, intitolato Atomium, abbiamo ascoltato il brano Logic System. Loro erano gli Analog 80. E adesso mettiamoci decisamente in difficoltà ascoltando, cioè almeno io mi metto in difficoltà perché dovrò pronunciare dei titoli lunghissimi, perché abbiamo a che fare con un pazzoide che fa, non so, dungeon black metal in 8 bit da Smalingerland, Paesi Bassi. Il nome dell'artista è Crystalline Thunderbolts Pierce the Sacred Mountain. L'album è Shine Like the Suicidal Madness of the Sacred Amethyst, e il brano che andiamo ad ascoltare ora è From What God Forsaken Pit Has Thou Dragged Up This Ugly Beast, da Ulm. Oh! Concludiamo questa puntata di Lupo Nair Summersburgo con un po' di selvaggina. Da Memphis, Tennessee, USA, arrivano i Big Clown, che è sta roba qua, questo hardcore punk intellettualoide, osiamo dire questo, dall'album, cioè l'EP, del 7 pollici, però ci sono 18 pezzi, intitolato Beat Down. Abbiamo ascoltato ora l'album, il brano Always New, loro erano i Big Clown, e ora ci salutiamo fino al giovedì prossimo, che è... Oh cacchio, è Ferragosto, è proprio il 15 agosto, ce la faremo? Ma sì che ce la facciamo, perché noi qua a Lupo Nair Summersburgo mica ci divertiamo come voi. Quindi ascoltiamo Scoopin'. Scoopin' è un triste cold waver crucco da Chemnitz, Germania, fa noie velle, la new wave da Germania, però quindi è contemporaneo, un ragazzotto contemporaneo. Ascoltiamo il suo singolone di quest'anno, Müde Wach. Lui è Scoopin'. E ciao al giovedì prossimo da Lupo Nair Summersburgo! Anders als wir beide trag ich mich auf meinen Beinen nur für dich. Deine Lungen füllen sich mit Rauch. Kannst du denn noch in den Spiegel schauen? Komm in mir, mach mir an, ist ein Zweifel. Mi sono scordato una cosa importantissima che fa molto anni 80-90. Miau!